Deborah, io ci rimango poi sempre male, ma poi alla fine è sempre così. Ad esempio, adesso Mennea, sempre tutto sui giornali, litigano, litigano, litigano, però non è il primo. No, Pensa no. Dalla, Agnelli, Alberto poi Sordi, anche lui, per non parlare della questione di Michael Jackson. Beh, quella lì me la Incredibile. ricordo. E forse anche, non c'è stato anche Sì, Bevilacqua. l'ultimo, la lite tra la sorella e la fidanzata. Ah, non era sposato. Non era sposato, ma insomma pare che lei contesti le modalità con cui è stata gestita la sua malattia in ospedale, Ma insomma. lei tocca un po' di eredità o no? Ma chissà, è Vabbè, una bella domanda, sarebbe esatto. carino Ma perché abbiamo anche. fatto tutti questi nomi? Perché volevamo magari provare, magari lo lanciamo. Se, cosa dici? Che Sì, facciamo così. cosa Esatto, lega il denominatore comune di tutti questi nomi? 800, 24 vecchie amate. 0024, ci pensiamo anche noi adesso intanto. Andiamo. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ecco, buono l'avvio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mennea che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea. È al comando attualmente l'inglese, poi si distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare, recupera, recupera, recupera, recupera, recupera. Ha vinto, ha vinto! Una performance incredibile, chi se lo può dimenticare? Lui adesso non può più correre, ma intanto i fratelli di Pietro Mennea contestano il testamento del velocista mondiale scomparso lo scorso 21 marzo. Sostengono che non l'avrebbe scritto lui ed è lite in famiglia, come spesso capita, per questioni ereditarie. Hai ragione Deborah, nulla di nuovo, però la crisi ha davvero peggiorato la situazione. Secondo un'indagine commissionata da PayPal a Ipsos, il denaro è uno dei principali motivi di attrito anche all'interno delle coppie, superato solo da quelli che possiamo considerare, io sono sposata da Un po' tot, di anni. i grandi classici, cioè i genitori e suoceri. I soldi non fanno la felicità, ma certamente fanno litigare. Non si litiga solo per i soldi, per il vil denaro. Buongiorno al dottor Aquila, è in linea con noi, il nostro psicologo, psicoterapeuta cognitivo, amico. Buongiorno. Buongiorno, e allora possiamo immediatamente porre due domande a chi ci sta seguendo. La prima è che rapporto avete con i soldi e la seconda per quale altro motivo, a parte il denaro, potete litigare. Con una piccola avvertenza, cioè quella che dietro i litigi per i soldi spesso si possono nascondere problemi che hanno altre radici. Allora, chiamate subito, siamo stati tutti piccoli, i soldi li maneggiamo tutti, 800 24 00 24, se litigate, se avete paura di farlo, prevenire è meglio che Ma curare. qua, guarda che oggi lo dico io, prevenire è meglio che curare, Nicoletta, perché si può fare prevenzione anche nelle questioni di denaro e ci insegnerà a fare le mosse giuste con anticipo un notaio, quindi sigilliamo quello che diciamo oggi. Salutiamo Piercarlo Mattea che è già pronto. Buongiorno notaio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ci darà delle informazioni? Sì, vi darò le informazioni necessarie in materia di testamento, sia nel caso decidiate di fare il vostro testamento, sia nel caso in cui siate chiamati in causa come eredi. Anche se non si tratta di eredità consistenti, è sempre importante mettere le cose bene in chiaro. Patti chiari, amicizia lunga, come si dice, allora noi ne parleremo a partire dalle 11:45, 349-238-6666 per i vostri SMS, ma siamo anche su Facebook, su Twitter, potete rincorrerci ovunque. E potete anche dirci se avete già fatto testamento. Tu, Deborah, l'hai Io fatto? non l'ho fatto, non ho molto, ma Secondo diciamo te che... Esatto, il porta... tema è quello, perché c'è un po' di scaramanzia attorno a questo argomento, probabilmente. Ma Però, non so, sentiamo i nostri amici da casa. guardiamo freddamente a queste situazioni. Essere e benessere. Possiamo disprezzarlo apertamente, contestarlo o al contrario, lodarne le virtù. Poco importa. Noi non ignoriamo mai il denaro, dato che conosciamo in modo confuso o preciso il ruolo centrale che ha nelle nostre vite. Non possiamo far altro che accettarne il potere. Il denaro è imboscato dappertutto, afferma lo psicoanalista Norbert Chatillon. È una guardia del corpo o un cecchino, una cosa che ci protegge o ci distrugge, come Dio o come il diavolo. tratto dal rapporto che hai con i soldi di Ballardi Editore. Dottor Aquilar, io credo che noi potremmo proprio iniziare da qui, dal rapporto che abbiamo con i soldi. Noi dobbiamo farci i conti, anche se è difficile ammetterlo. Spesso sono proprio questioni legate al denaro a far emergere lati della personalità, della nostra personalità, di cui ignoravamo proprio l'esistenza. Tutti noi d'altronde conosciamo quello che si è trasformato per questione di soldi da dottor Jekyll a Mr. Hyde. Abbiamo il dottor Aquilar, è un po', sta litigando con la linea. Deborah, tu che rapporto hai con i soldi? Beh, io purtroppo me ne devo occupare tutti i giorni, purtroppo e per fortuna, perché in realtà, come dire, è una situazione che mi mette nella condizione di conoscere bene le situazioni di soldi, i problemi che questi possono creare, e quindi anche grazie a questo ho l'opportunità di trovare gli strumenti per risolvere molte situazioni. Magari viviamo anche qua, in questa azienda, in un osservatorio privilegiato che ci dà l'opportunità di conoscere meglio certi problemi e gestirli, appunto, e risolverli. Però, insomma, il denaro, mi sono sempre chiesta se è vero che faccia la felicità o meno. Dottor Aquilar, adesso possiamo sentirla bene? È tornato? Eccomi. Eccola lì. Eccomi. Allora, dicevamo che possiamo cominciare ad esplorare i significati del denaro dentro ognuno di noi. Mm-hmm. E per questo potremmo fare un piccolo gioco test, cioè di mettere in ordine di importanza quattro dei significati del denaro. E sono questi: libertà, potere, seduzione e preoccupazione. Ogni ascoltatore può dare un valore da 4 a 1 a questi quattro significati simbolici. Per chi è più importante la libertà, il denaro come libertà; per chi è più importante il denaro come potere, il denaro come seduzione e il denaro come preoccupazione. E poi valuteremo le loro risposte. Quindi noi facciamo un elenco di priorità, giusto? Esattamente. Voi avete tempo per riflettere, per chiamare e rispondere anche a questo stimolo del dottor Aquilar, 800 24 00 24, ma intanto, se a farvi litigare in famiglia è la gestione dei soldi, abbiamo letto questa indagine, abbiamo visto che le coppie litigano soprattutto in tempo di crisi per questioni di soldi, certo, perché non si arriva alla fine del mese. Non si arriva alla fine del mese, ma magari qualcuno è anche non in grado di gestire bene questo denaro, si disperde, si spende, non si tiene il conto della carta di credito, Nicoletta, vero? Ecco, e allora se siete così consapevoli di questo problema, fate un salto presso la vostra banca, perché molti istituti di credito nel nostro paese hanno attivato dei programmini molto semplici per aiutarci a fare di conto, come si dice, a fare il bilancio delle entrate e delle uscite. I nostri ragazzi, che sono molto giovani, Nicoletta, Laura e Marco, hanno trovato questa applicazione su iTunes che si chiama Hyponey, io non so se si legga in maniera corretta, c'è anche comunque un'altra applicazione. Comunque si scrive Hyponey con l'Y. Poi ce n'è un'altra anche carina che si chiama Money Lover, che è quella che usa il nostro Marco Lombardo. Ce ne sono tante e quindi magari fatevi aiutare. Lo so che forse la banca può essere considerata non più il soggetto affidabile per aiutarci a gestire, perché la banca vuol solo prendere i nostri soldini, però magari hanno degli strumenti adatti, quindi. Quando abbiamo i soldi brilliamo, quando non ne abbiamo strilliamo. 800 24 00 24, questa è una frase di un anonimo. Intanto io vi ricordo, oggi cerchiamo di capire i rapporti che abbiamo con i nostri soldi, che cosa dobbiamo fare. Il dottor Aquilar ha fatto un elenco, giusto, di parole: libertà, potere, seduzione, preoccupazione. Noi, dottor Aquilar, dobbiamo fare? Dobbiamo mettere in ordine di importanza per noi. E quale significato del denaro è più importante? Gli diamo valore 4 e poi a scendere 3, 2 ed 1 tra questi quattro concetti. Sentiamo la nostra donna di denari come mette queste parole. Allora, direi che metto al primo posto sicuramente la libertà, al secondo la preoccupazione, anche se non ne ho molti, però in realtà ritengo che per chi ne ha molti in realtà questo aspetto costituisce anche un po' di preoccupazione. Potere e seduzione, magari se trovo un fidanzato molto ricco, chissà se vorrà sedurmi. No, senti, due cuori e una capanna no, eh? No, due no, capanne, non va più di mo. Due capanne e magari cuori. Anche una al mare e una in montagna sarebbe anche meglio. Sì, hai ragione, sei perfetta, io non ho fatto niente di giusto in 15 anni. Tu non mi stai ascoltando. Non ti va mai bene niente. Non si è mai detto che tu ascolti. E tu ti attacchi a ogni minima cosa. E figuriamoci se ti prendi delle responsabilità. Non sto parlando di comunicazione, di sguardi, di qualcosa che dica che io e te siamo in sintonia. infatti i soldi non sono tutto nella vita e non si litiga solo per soldi. Dottor Aquilar, a voler vedere, o meglio a sentire, gli esperti di coppia, i motivi non mancano, sono tanti e diversi, ma sono tutti riconducibili a 6 categorie, se così possiamo chiamarle. Certamente, e possiamo magari proporle agli ascoltatori i risultati appunto delle ricerche che dicono che le categorie sono queste 6. La prima è quella sulle decisioni da prendere, si litiga sulle decisioni, incluse quelle che riguardano la carriera o altre scelte, poi sui rapporti sessuali, ancora sulle questioni economiche che sono il nostro argomento di oggi, si litiga moltissimo poi nella coppia sugli svaghi e sulle attività per il tempo libero e infine sui rapporti con i figli e i rapporti con le famiglie di origine. Allora, decisioni, sesso, soldi, svaghi e famiglia d'origine. 800 24 00 24, se vi riconoscete, se volete parlarne con noi, se volete raccontarci se avete già fatto testamento, se dottor Aquilar, lei che è di Napoli. Sì. Lei ha fatto testamento oppure proprio per il tema del pensiero magico tipicamente napoletano. Per questo l'ho chiesto a lei e non lo farà. No, forse mi state convincendo, sentirò dopo il notaio e magari cambio idea. Perché si dice che porti male fare il testamento. E l'idea è che non è che porta male, ma che in qualche modo è un evento che ci costringe a prevedere la nostra morte, cosa che a tutti non fa piacere. Intanto un nostro ascoltatore ha fatto il testamento. Sì, esatto, e ha lasciato tutti i suoi debiti alle conduttrici di Cuore e Denari. Salutiamo Alex da Reggio Emilia, speriamo Alex che non ne abbia molti. Io non sono scaramantico perché porta male, ma vi ascolto con piacere, ci scrive Luigi, frase storica, il denaro non fa la felicità, immaginatevi chi non ne ha, e poi tanti interrogativi sul tema del testamento che poi scioglieremo. Naturalmente scioglieremo a partire dalle 11.45 con il nostro notaio. Notaio e poi con un mediatore anche, sì. 800 24 00 24, Deborah, tu ieri sera dove eri? A che ora? Alle 8. Alle 8 stavo davanti ad un teatro di Milano ad aspettare una mia amica che non trovava parcheggio. Allora l'hai scampata. Una curiosa ricerca inglese ha analizzato le modalità con le quali avvengono i litigi esaminando 3.000 coppie sposate e conviventi. Ne è risultato che il giovedì è il giorno in cui le probabilità di discutere per banalità aumentano. E che l'ora X sono le 20. Quali sono queste cause banali di litigio? Le donne si sentono più stressate e si arrabbiano per la classica asse del WC non abbassata dopo l'uso, per l'accumulo di oggetti inutili, per le tazze sporche lasciate in giro per casa. Gli uomini invece si arrabbiano se la compagna impiega troppo tempo a prepararsi, intasa il lavandino con i capelli e si concentra troppo sui lavori domestici. Probabilmente il giovedì è il giorno critico per i litigi, perché in quel momento della settimana è stata già accumulata molta stanchezza e manca ancora un giorno all'arrivo del weekend. Non dobbiamo litigare più, per favore amore, proprio più, serve solo a star male da soli. Abbiamo in linea con noi Emilio che ci chiama da Roma, buongiorno Emilio. Buongiorno a voi. E poi abbiamo anche Maria Grazia da Como, intanto aspettiamo i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo e chiamando. Il dottor Aquilar è pronto, vi abbiamo stuzzicati proponendovi di capire il rapporto che ci lega con i soldi, che cosa sono i soldi per voi e quindi sono libertà, sono potere, sono seduzione o sono preoccupazione. Emilio, buongiorno. Buongiorno di nuovo. Sì, è stuzzicante il tema. I soldi sono libertà e poi preoccupazione per quanto mi riguarda, soprattutto in questo momento storico, economico, non proprio insomma brillante. Felice. No. E potere e seduzione dove li mette? Ma potere, no, le ultime, prima potere e poi seduzione in ultimo, ma insomma secondo me la cosa importante del denaro è poter avere quella libertà di godersi insomma la vita, i posti e evadere un po' insomma rispetto alla routine. Emilio, stia lì, sentiamo anche Maria Grazia da Como. Emilio, lei ha già fatto testamento? No. Neanch'io. Maria Grazia... Però pensiamoci, Emilio. Maria Grazia, buongiorno. Sì, buongiorno. Anch'io volevo intervenire, anzi, quando appena posso seguo sempre, tanti complimenti per la trasmissione. E siccome un po' in fiadone perché ero in macchina, adesso sono uscita per fare un pezzo di strada, scusate. Sì, niente. Comunque, ecco, il mio elenco è questo, sicuramente libertà. Sì. In assoluto. Poi al secondo posto metterei anche il potere, perché io che ho già 60 anni penso al futuro da persona anziana, se uno non ha i soldi purtroppo, certo, non riesce neanche a curarsi al giorno d'oggi, quindi potere inteso in quel senso anche, non come potere in assoluto. Sì. Perché e poi abbiamo ancora preoccupazione e seduzione, dove li mettiamo? Così chiediamo al dottor Aquilar di interpretare, sì, un po' le vostre, allora, i vostri elenchi. Terzo, preoccupazione sia in senso positivo che negativo, nel senso, certo, che anch'io non ne ho, perché ho anche tre figli, che nessuno dei quali ancora lavora, per cui preoccupazione proprio nel senso di non averne, non di averne, sì, per quanto mi riguarda. E la seduzione sicuramente è una cosa che insomma mi attira, mi attrae, però la mettiamo pensare, all'ultimo posto, Maria Grazia, perché non ne ho, quindi non posso neanche sedurre. Allora, è tutto relativo, penso, anche alla situazione di ciascuno. Dottor Aquilar, tocca a lei. Intanto i nostri ascoltatori stanno cominciando già a capire che cosa c'era dietro il meccanismo del gioco test, che aveva delle parole ambigue che possono essere interpretate in vari modi, e anche il modo in cui la persona interpreta la parola va a sua volta interpretato. I nostri due ascoltatori mettono al primo posto la libertà, quindi il denaro simbolicamente come modo per essere liberi da altre persone e da altre costrizioni, il che va benissimo. L'unica cosa è che possiamo allenarci a sentirci liberi anche quando i soldi non sono quello che noi vorremmo come quantità, perché altrimenti diventiamo schiavi. La nostra libertà mentale va anche oltre il denaro e possiamo allenarci in quella direzione. Intanto che voi continuate a chiamare per dare l'elenco delle vostre priorità, dottor Aquilar, al di là dei soldi o al di là del motivo che ci spinge a litigare, possiamo dire che una cosa è certa: tutti i litigi possono trovare una buona soluzione. Io direi che su questo possiamo riflettere un po' e capire che in qualche modo, se uno vuole l'accordo, lo trova. Se impariamo a litigare bene, riusciamo anche a trasformare l'occasione di scontro in un'operazione che ci fa migliorare, crescere, avvicinare all'altra persona. Certo che comunque litigare è un po' un'arte, questa arte ha delle regole, va imparata e ha delle regole. Dottor Aquilar, lei ci aiuta? Sì, certo, con piacere. Ha delle regole e queste regole possono essere imparate e approfondite nel tempo. Prendiamone alcune proprio semplicissime, giusto, sì, per cominciare. La prima, direi, è: di quel che devi dire e poi sta zitto. Perché alcune persone vanno avanti per millenni ripetendo 10 volte la stessa cosa, sì, e non serve a nulla. Un'altra regola che può essere utile è di ricordarsi che i litigi possono essere a puntate, cioè non necessariamente dobbiamo sviscerarne tutti gli aspetti quel giorno, magari il giovedì come si diceva nella ricerca di prima. Sì. Un terzo punto è ricordarsi di parlare in prima persona, quindi di cominciare a dire le cose con io piuttosto che con tu, che accusa l'altro e lo mette già di cattivo umore, e infine di chiedere anche consiglio agli altri su come risolvere i nostri problemi, ma non troppo. Può essere importante non parlarne con troppe persone, perché troppi che conoscono i dettagli della nostra relazione intima possono portare confusione. Deborah, ti piace? Mi piace molto. Posso leggere questo messaggio di Daniela, che tra i tantissimi che ci stanno arrivando è quello che ho scelto, perché si riallaccia alla considerazione che ha fatto anche prima l'altra ascoltatrice: i soldi che servono per pensare alla nostra vecchiaia, per viverla serenamente. Daniela ci scrive: i soldi non sono tutto, ma se io ne avessi un po' potrei prendere una o due badanti per mio papà di 90 anni e mia madre di 81 che è allettata e sta a letto, e io potrei essere meno prigioniera. E poi ve ne leggo anche altri molto carini, molto belli. Vuoi leggerlo subito prima di dare... Un altro che parla dei figli, un'altra ascoltatrice dice: sono una grande soddisfazione, ne ho 4, pur essendo una grande soddisfazione sono la maggior causa di litigio, i soldi sono preoccupazione quando non ce ne sono. Andiamo un attimo a Modena perché c'è Giuseppina che vogliamo salutare. Giuseppina, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Che mi dice Giuseppina? Allora, io penso che i soldi sono una grande risorsa per noi donne, soprattutto perché ci permettono di essere indipendenti non solo economicamente, ma anche mentalmente. Riusciamo quindi a poter decidere, ecco, perché rientra poi il verbo potere, nel senso di poter scegliere ciò che riteniamo più opportuno da fare nella nostra vita. Mi piace molto il commento di Giuseppina, che se ci permette lo tagliamo e lo mettiamo come commento, come contributo della trasmissione nella pagina di Cuore Denari di oggi. Grazie Giuseppina, siamo assolutamente d'accordo con lei. Anche se questa è una cosa che spaventa un po' tutti gli uomini che sono in ascolto, però magari lo affronteremo questo argomento in un'altra puntata. Cuore Denari 800 24 00 24. Deborina. Allora Deborina, adesso credo che dobbiamo fare fra un attimino, non so che ore sono, Nicoletta, perché sono, non vedo. È giusto. Vedo che Marco si sta sbracciando. Allora sì, allora facciamo una cosa, rispondiamo a due SMS. Un ascoltatore scrive: se ci sarà anche un esperto dopo per rispondere sul tema testamenti e donazioni. Sì, Raffaele, fra un attimo avremo l'esperto, fra qualche minuto. Poi saluto Giorgio perché mi scrive: Debbie, io non sono ricco ma ti adoro e lo adoro anche io. L'abbiamo trovato il principe azzurro proprio, ecco, non deve essere ricco ma proprio però c'è un pochino benestante, ecco, diciamo. Autosufficiente, no, direi. Non esageriamo, andiamo ai mercati. Cuore e denari. Non dobbiamo reagire, nervi saldi. Ho voglia di litigare con qualcuno. Ora prendo un automobilista, mi faccio dare un sacco di botte. Ho bisogno di litigare. Dottor Aquila, a volte abbiamo proprio bisogno di litigare. Ci viene quella cosina nella pancia. Perché, dottor Aquila? È perché quello distoglie l'attenzione dalle sofferenze che noi abbiamo dentro. E quindi in questo senso, se noi ci accorgiamo che per esempio negli ultimi mesi stiamo litigando di più, che siamo sempre in guerra, forse possiamo cominciare a pensare di farci aiutare un attimo, perché anche la rabbia può essere un propellente, ma a volte può essere qualcosa che affossa. E dobbiamo anche dire che la preoccupazione economica si risolve in maniera creativa. Se io sono troppo preoccupato mi si blocca la creatività, e quindi da questo punto di vista va fatto un ragionamento più ampio. Se siamo allegri potremo guadagnare più denaro. E lo dicono anche numerose ricerche, dottor Aquilar, questo, vero? Senz'altro. C'è un rapporto stretto tra tono dell'umore e creatività economica, e quindi ci conviene lavorare su noi stessi, e quando non ce la facciamo da soli, senza vergogna o paura di farci aiutare, anche per risolvere il problema del rapporto con denaro. A ciascuno il suo modo di litigare, potremmo dire così. Adesso chissà, Deborah, tu come litighi? Dipende chiaramente, probabilmente, dalla motivazione del litigio. Litigo molto spesso con me stessa io. Perché Deborah ed io in redazione siamo abbastanza lontane, per cui devo dire che nella prima settimana... Ancora non ci siamo scannate, chissà se cominceremo presto. Però c'è chi si accende come un fiammifero, chi subisce, chi cova un po' come il fuoco sotto la cenere, chi fa il muro di gomma, dimmi come litighi e ti dirò chi sei. Ma dietro a queste modalità che noi spieghiamo come tratti del carattere, della personalità, c'è dell'altro... Ci sono gli ormoni e in linea con noi abbiamo il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Non mi è venuta bene questo lancio perché ho detto ormoni, c'è il dottor Ongaro. Non lo so. Adesso tutte le donne andranno a vedere su internet che viso avrà. È vero, perché io quando sono andata a presentare dei libri del dottor Ongaro, devo dire che aveva proprio una clac lì davanti di giovani donne che... insomma erano lì, si vede che è un uomo di potere. Dottor Ongaro, allora grazie, senta, sono lusingato. Allora, a parte questo che è caduto in mezzo alla donna di cuore e la donna di denari, ma vedo che lei se la sta svicolando benissimo, torniamo agli ormoni. È vero che anche gli ormoni ci guidano? Sicuramente è un'analisi, una lettura corretta. Parliamo del litigio, dell'arrabbiarsi, ma non c'è dubbio che arrabbiarsi produce dei cambiamenti nel nostro organismo che sono piuttosto profondi ed evidenti, fa salire la pressione, aumenta il battito cardiaco, o viceversa invece se la rabbia la incameriamo senza sfogarla, no, aumenta lo stress, logora l'organismo, il termine mi fa venire l'ulcera, per esempio, spiega molto bene questo concetto di logorio. Sì, sicuramente c'entrano anche gli ormoni, non è l'unica cosa ovviamente che determina questo, gli ormoni e i neurotrasmettitori, se ci si accende molto in fretta, se si è poco propensi alla diplomazia, magari abbiamo dei livelli molto alti di adrenalina e di cortisolo, che sono gli ormoni del combattimento e della fuga, quindi dello stress, dell'azione, no? Se invece siamo un po' rassegnati e passivi, magari ci mancherà la serotonina, per esempio. Se invece siamo più sorridenti, più capaci di far fronte allo stress della vita, potremmo avere magari livelli molto elevati di ossitocina. L'ossitocina, tra l'altro, è un ormone molto interessante perché è conosciuto per le sue azioni nel favorire il parto, però in realtà è l'ormone responsabile del legame tra la mamma e il bambino, il neonato. E è proprio un ormone che genera una percezione di sicurezza e di fiducia che incide così tanto sui livelli di stress, cioè l'ossitocina fa sentire più tranquilli e più sicuri di se stessi e degli altri. E ci sono dei modi di stimolare ovviamente la produzione di questi ormoni o viceversa anche di rallentarla se dovesse essere eccessiva. Per esempio l'ossitocina, una cosa che vi piacerà, è stimolata dalle coccole, dalle carezze, dai massaggi, particolari massaggi nella zona addominale, per esempio, è stato visto che fanno produrre una quantità di ossitocina più alta, quindi il contatto fisico. Dottor Ongaro, quindi i miei problemi sono tutti riconducibili alla mancanza di ossitocina? Posso risolvere con le sue bacche di goji in qualche modo? No, io qua lo risolverei più cercando veramente di ampliare un po' il contatto fisico con le persone a cui si vuole bene. Questo weekend risolvo fisico con quelli con cui bisogna litigare. Certo, questo weekend risolvo con i miei nipoti, me li sbaciucchio tutti e vediamo di, ecco qua. Quindi Deborah, in fondo questa è la nostra spazio del benessere, la tua scuola di benessere, l'ABC. Iniziata lunedì, è già partita, ecco. Ma proseguita male, devo dire. Allora, dopo le bacche di goji e l'avocado a merenda insieme al pane integrale, che cos'altro dovevo fare? Non me lo ricordo. No, credo che i primi compiti fossero questi. Ma com'è andata con quelli? Possiamo cambiare domanda, dottor Ongaro? Allora, devo dirle che non ho trovato le bacche di goji, ma su internet ho visto come sono fatte in modo tale da poterle cercare questo weekend al supermercato e ricomincio lunedì. Però sono stata molto interessata al tema, ho scoperto di essere una perfetta ignorante sull'argomento, mentre ho scoperto che molti colleghi ne fanno un uso abbastanza frequente e quindi evidentemente danno beneficio. Direi che la ragazza si sta impegnando, dottor Ongaro. Adesso, nel pomeriggio e nel weekend, le faremo dei massaggi nella zona addominale, carezze sul pancino, e poi tempo, un mese, ve la restituiamo nuova. Ma, dottor Ongaro, a parte gli ormoni responsabili dei modi, no, in cui noi litighiamo, noi possiamo fare delle correzioni a tavola, magari riducendo qualcosa che accende? Beh sì, mi viene in mente per esempio il discorso di un aminoacido che si chiama tirosina, che è un precursore dell'adrenalina e che sicuramente potrebbe essere, diciamo, una delle cause di una propensione alla rabbia. In questo caso a cui bisogna stare attenti è non mangiare troppe proteine, formaggi, carne, salume, uova, ovviamente sono ricchi di tirosina e quindi potrebbero avere perlomeno in parte un'azione di accensione su questi circuiti dell'irritabilità e della rabbia, ecco. Abbiamo Rosalba dalla provincia di Lucca che ci chiama all'800240024, vediamo se è per il dottor Ongaro o per il dottor Aquila o magari per la donna di denari. Per qualche eredità. Rosalba, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Io mi sono collegata solo pochi minuti fa, quindi non so se forse avete già parlato di questo. Ho sentito che state parlando del litigio e del modo di litigare. Sì. E volevo dirvi così quello che ho imparato io da qualche anno e che funziona, che è il metodo di Marshall Rosenberg, che è uno psicologo americano e praticamente il litigio, nel senso l'espressione di scontro con l'altro, prevede tre fasi ben precise. Una è innanzitutto focalizzare su se stessi qual è il motivo della rabbia, no? Perché tante volte abbiamo della confusione, invece va focalizzato e chiarito e quindi espresso. Due? Cioè dire all'altro io sono arrabbiato perché? Per questo, perché hai detto questo, non hai detto eccetera. È chiaro, passiamo al secondo punto. il secondo punto consiste nel riconoscere che quale bisogno è sotteso al mio sentimento. Cioè io sono arrabbiato perché tu lasci in disordine, il mio bisogno è quello di vedere la casa più in ordine, no? Chiaro, come la capisco. Terzo punto? Il terzo punto è quello di fare una richiesta precisa e concreta all'altra persona. Io devo dire, da quando sperimento questo sistema va molto meglio, perché mi libero della mia rabbia, non offendo nessuno e nello stesso tempo ottengo risposte. Non è certamente sempre che uno l'altra persona risponde, si trova una via di pace, ecco. Grazie Rosalba, per questo, ecco, ha fatto benissimo. Dottor Aquilar, ci piace, siamo quasi in chiusura, quindi un commento rapido. Ci piace senz'altro il suggerimento di Rosenberg e di Rosalba. Il problema è che questo vale solo per le persone che hanno un'elevata consapevolezza delle proprie emozioni, mentre invece quelli che sono la maggioranza che non ce l'hanno non possono applicare questo metodo. Quindi il suggerimento in chiusura è: stiamo attenti a quello che proviamo, e una volta che l'abbiamo riconosciuto sarà tutto più facile. Grazie al dottor Aquilar, salutiamo anche il dottor Ongaro, quindi attenzione anche agli ormoni. E dottor Ongaro, la saluto leggendo il messaggio di Elisa. Non a caso, quando noi donne litighiamo molto, non ci dicono che siamo acide, ci consigliano qualcosa. La fermo qui, perché dottor Ongaro, intanto noi ci sentiamo per la scuola del benessere di Deborah il prossimo venerdì. E c'è anche un ascoltatore che ci chiede come si devono mangiare i goji, che l'abbiamo resi maschi e al plurale. Grazie. Grazie. Grazie al dottor Ongaro. Grazie al dottor Ongaro e anche al dottor Aquilar. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta con Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ti ho anche presentato, Nicole, così ti ho dato il motivo per litigare. Faccio io tutto quanto per te. Bello, mi piace. Senti, mi piace. Un po', abbiamo non visto... litigare, no, anzi no. Io vorrei lanciare una campagna del non litigio. Esattamente. Posso dirti? Raccontalo l'episodio allora, di stamattina. Allora, stamattina io alle 8 ero al supermercato. Facciamo 8 e 10. Sì, vabbè, al bancone, per essere larghi. Ecco, al bancone, quello che sai, per cambiare la moneta, fare la spesa a casa. C'era già un signore di una certa età che ne ha tirate giù dal cielo, santi, parenti, cugini lontani, tutti, e poi continuava ad inveire contro le signorine che cercavano di dargli retta. Allora io alla quindicesima bestemmia e alla 32esima parolaccia gli ho detto: scusi signore bello, sono le 8:10 del mattino, perché noi dobbiamo sopportare tutta questa violenza? Facciamo un bel respiro, cerchiamo di essere educati anche nei confronti degli altri, perché lei mi deve fare iniziare la mattina in questo modo? Faccia una cura di serotonina e sia tranquilla. Ci vuole un po' di rispetto. Allora, con Deborah volevamo lanciare la campagna della buona educazione, sì, del rispetto dell'altro. Non saranno molto contenti gli ospiti che io tra un po' vado ad intervistare, però tutto sommato magari anche loro saranno, come dire, meno stressati, magari anche per loro potranno esserci buone condizioni professionali. Vero Deborah, la lanciamo. Se avete delle occasioni in cui siete riusciti a mettere un po' pace, o non litigare, o a non dare proprio in escandescenze, la nostra pagina di Cuore Denari è a vostra disposizione. Però purtroppo questa settimana hanno litigato non so quanto duramente tutti i familiari del povero Pietro Mennea. Salva Danaio. Allora, eccoci di nuovo in diretta, ancora buongiorno da Deborah Rosciani. Intanto iniziate a chiamarci, perché il nostro notaio a partire dalle 12:10 vi aiuterà nei casi concreti che ci sottoporrete, qualora siate strati, vostro malgrado, protagonisti di una lite familiare per questioni di eredità e successione, come è capitato appunto alla famiglia di Pietro Mennea, che in questo periodo i suoi tre fratelli stanno mettendo in discussione il testamento che lo scomparso appunto nostro grandissimo campione avrebbe scritto appunto prima chiaramente di venire a mancare. Detto questo, ci sono però delle modalità alternative prima di arrivare in tribunale, appunto, per risolvere anche queste situazioni. Allora noi oggi ne parliamo con l'avvocato Nicola Soldati, che è anche un esperto per Il Sole 24 Ore. Buongiorno avvocato e bentrovato. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, abbiamo, buongiorno anche ai radioascoltatori. Molti ascoltatori si ricorderanno dell'avvocato Soldati, perché lo abbiamo già interpellato ad inizio settimana, quando vi abbiamo spiegato come si possono risolvere tante controversie utilizzando l'istituto della mediazione, quindi evitando di arrivare in tribunale, cerchiamo di sbrigarcela un po' prima. Nelle controversie successorie, avvocato Soldati, la mediazione si può utilizzare, quindi per esempio i fratelli di Pietro Mennea potrebbero andare con la vedova di Mennea davanti a un mediatore per cercare di chiarire se questo testamento è vero o meno? Certamente sì, anzi aggiungo un'ulteriore cosa, che sarebbero costretti ad andare in mediazione, poiché le controversie in materia di successione ereditaria sono obbligatoriamente sottoposte a un tentativo preliminare di conciliazione prima di poter... Quindi addirittura è obbligatoria, ma è vantaggioso questo strumento per queste cause? Ma sicuramente sì, perché il diritto successorio è un diritto molto complesso e molto rigido, e la mediazione invece consente di andare a comprendere veramente quali sono i reali interessi delle parti coinvolte nella lite e quindi di arrivare a soluzioni sicuramente più interessanti, voglio dire, che vanno a dare piena contezza ai veri interessi delle parti al di là delle posizioni espresse in giudizio. Questa mattina siamo un po' sfortunati con i telefoni, anche l'avvocato Soldati lo sentiamo male, adesso proviamo con la prossima domanda, altrimenti ci riproviamo. Avvocato Soldati, per rispondere alla domanda successiva, perché io vorrei capire come agisce il mediatore in una controversia in materia di successione, vediamo se possiamo così legare questa domanda a quella che ci fa Pietro da Palermo, che saluto subito all'800240024. Pietro, buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Allora, io volevo chiedere in merito a una situazione particolare personale, cioè ho un fratello che è inabile e di cui io sono curatore, e c'è anche una sorella che da 35 anni ha completamente abbandonato la famiglia. Mm-hmm. Mio fratello non ha fatto testamento. Desideravo sapere se può farlo da inabile Certo. Allora Pietro, intanto noi prendiamo la sua domanda, la proteggiamo e la conserviamo per la seconda parte della trasmissione, perché credo che per un caso come questo la figura del notaio sia più indicata. Ma avvocato Soldati, qualora questo fratello che è inabile al momento venisse a mancare, appunto, e si scatenasse la guerra per l'eredità tra questa sorella che da anni che non si fa vedere e il fratello che in questo momento si prende cura della persona inabile, dovrebbero subito adottare, come dire, la mediazione per risolvere la loro situazione? Sicuramente, laddove non riuscissero a trovare un accordo fra di loro, prima di dover andare in giudizio dovrebbero sempre seguire la via della mediazione. Certo. Come agisce un mediatore in queste situazioni? Cosa fa? Ma il mediatore rispetto al giudice ha un grande vantaggio, che non deve decidere la controversia e quindi non deve dire chi ha torto o chi ha ragione, ma deve comprendere quali sono gli interessi delle parti, perché molto spesso ci sono anche questioni personali, come nel caso dell'ascoltatore, cioè situazioni che portano a una grande acredine fra i parenti, e quindi questi sfocerebbero in un contenzioso molto forte, molto acceso. E ricordiamoci che nei nostri tribunali proprio le controversie in materia di successione sono quelle che si protraggono per 10 o 20 anni o anche più. Ci sono casi veramente ormai centenari che riguardano controversie. Certo, quindi questi sono anche un po' i vantaggi della mediazione rispetto all'attesa per una sentenza. C'è una domanda per lei, certo, da Nicoletta Carbone, dalla donna che del si occupa cuore. Di cuori. Che rilevanza ha la, direi, questione emotiva in una controversia successoria? Ha una rilevanza grandissima, proprio perché le parti molto spesso nel conflitto, proprio perché la parola conflitto è intrisa di questa, di queste emozioni, porta a... Eccolo qua, ce la siamo persa. Guarda, tanto stiamo terminando il nostro tempo. Oggi con i telefoni non ci siamo, stanno andando in vacanza anche loro per il weekend. Stiamo litigando con i telefoni. Con i telefoni, vedi, però là non parlano, quindi c'è poco da arrabbiarsi. Allora, tanto sta terminando la prima parte del nostro programma, Cuore Denari, poi ritorneremo nella seconda, certo, con il nostro notaio per andare ai dettagli delle caratteristiche dei vari testamenti che si conoscono e come si possono risolvere anche i casi come quelli dei quali leggiamo. Lite tra parenti per l'eredità si accoltellano davanti alla nonna morta. Anche questo, Nicoletta, è successo a Tivoli. Cuore e denari. Scusatemi, ma a che ora si leggerà il testamento? So di dare un dispiacere a voi tutti, ma stasera il testamento non si leggerà per nessuna ragione. Bene, per chi ci è riuniti allora? Ecco perché vi ho riuniti qui stasera. Il signor Belisario Lorer non è affatto morto di morte naturale. È stato ucciso da uno di voi. Questa è un'accusa assurda. Un'accusa assurda e ingiustificabile. Forse lo è e forse no. Ma resterete tutti a mia disposizione in questa casa finché non avrò scoperto il colpevole. E allora, almeno nel film con Stanlio e Olio, i vagabondi del 1930 non contestano la calligrafia del presunto autore di questo testamento. Eccoci ritrovati a Cuore Denari, ancora buongiorno dalla donna di Denari che è Deborah Rosciani. E da Nicoletta Carbone, alias donna di Cuore. La vicenda che ci ha stuzzicato oggi è quella relativa alla contestazione del testamento da parte dei tre fratelli del velocista mondiale Pietro Mennea, scomparso il 21 marzo scorso. Ritengono che l'atto olografo, perché il testamento scritto di proprio pugno si chiama così, non sia stato stilato dal primatista. Il fratello, Enzo Mennea, ha detto: quel testamento è falso, non l'ha scritto mio fratello, ha fatto fare una perizia calligrafica, situazioni che si verificano molto frequentemente, che non riguardano solo personaggi famosi molto ricchi. Testamenti impugnati, eredità contestate, successioni difficili, è un tema che rende le giornate piene di lavoro, di schiere, di legali e notai, vero notaio Piercarlo Mattea? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Notaio in Lodi, ma anche esponente del gruppo della comunicazione del Consiglio Nazionale del Notariato, quindi su questo tema stamattina lei sarà chiarissimo. Farò del mio meglio. Senta, ci sono già degli ascoltatori pronti all'800240024, ma prima la curiosità che mi voglio togliere è questa. La contestazione del testamento è molto diffusa? Non esistono dati statistici precisi, ma bisogna fare una distinzione. Altro sono i testamenti che erano stati redatti con l'ausilio di un consulente, notaio, avvocato, legale, e altro i testamenti fai da te. Quelli redatti con l'ausilio di un consulente raramente vengono impugnati e spesso le impugnazioni non vanno a buon fine. Quelli fai da te hanno un grado molto elevato di pericolosità per aspetti sia formali sia sostanziali, quindi sia la forma sia il contenuto. Nicoletta, hai capito quello che devi fare? Sì, quindi bisogna andare dal notaio. Per forza, perché anche se uno vuole farlo, come dire, senza farlo sapere a parenti, congiunti, è bene che lo compili, insomma, in maniera molto scrupolosa e molto precisa. Patti chiari, amicizia lunga, come ho detto prima. Quello di Mennea è stato scritto di suo pugno, almeno sostiene la moglie, i fratelli questo aspetto lo mettono in discussione. Questo è un atto olografo, notaio? È un testamento olografo se è stato scritto tutto di suo pugno, ma ovviamente anche firmato di suo pugno. Mi pare che i fratelli contestino forse solo la sottoscrizione e non l'intero documento. Un paio di consonanti scritte, la I scritta senza il puntino sopra, sì, sono andati proprio al pelo. Però sarà il giudice e il perito a decidere. Ecco. Certo. Quali altri tipi di testamento conosciamo? Fondamentalmente la distinzione è fra olografo e pubblico. Esiste anche una forma che si chiama testamento segreto, ma non vale la pena di perderci tempo perché se ne fanno pochissimi e serve poco. Il testamento pubblico è quello che fa il notaio, che raccoglie le volontà espresse dal testatore in presenza di testimoni, normalmente due, ne fa un atto notarile che poi conserva nella propria raccolta. Allora, noi adesso abbiamo limitato, come dire, la prima parte della nostra intervista alla questione del testamento, ma vedo già che gli ascoltatori vanno molto oltre e già cercano di capire come disciplinare eredità possibili, future, ma anche quelle che sono già state ricevute e che evidentemente ci sono degli eredi che contestano. Allora, Nicoletta, vado con qualche ascoltatore? Direi di sì, mi piace molto. Ci sono Maria Pia dalla provincia di Livorno e Mustafa da Grosseto pronti, ma potete continuare a prenotarvi all'800240024, a scriverci al 349-238-6666. Cominciamo con la nostra ascoltatrice livornese. Buongiorno Maria Pia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci dica tutto. Non so se rimango nel tema, ditemi magari. Se ci proviamo Maria Pia, non si preoccupi. Allora, volevo chiedere all'avvocato o al notaio questo quesito. La mia mamma ha convissuto per 40 anni con una persona che è mancata quest'anno. Gli eredi diretti, che sono i figli, si oppongono al pagamento delle spese funerarie, nonché della lastra, diciamo, della lapide. E, è stata citata in giudizio come, in primis, come la persona che dovrebbe in questo caso pagare, poiché al momento del decesso ha firmato con l'impresa funebre il foglio, ora non ricordo esattamente come si possa chiamare, dà l'incarico, un documento, dell'impresa funebre. E appunto volevamo capire fino a che punto può essere o meno in questo caso responsabile del pagamento. Maria Pia, si fermi lì. Certo. Nell'eredità. Qualora il notaio avesse bisogno di altre informazioni, ma magari bastano queste informazioni appunto per poter dare un orientamento alla nostra ascoltatrice. Il quesito questo è chiaro, le spese funerarie si considerano normalmente delle passività che gravano sull'eredità. Un debito. Che gli eredi di questa persona che è defunta, se in assenza di testamento sono i figli, dovrebbero farsi carico anche di quelle spese. D'altra parte, se è stata la signora a incaricare l'impresa, nei riguardi dell'impresa è obbligata lei. Secondo me questo è un tipico caso dire, in cui, sì, come sì. diceva prima l'avvocato, una sana mediazione serve e anche posso una buona dire, dose però, di buon senso che magari può portare a dividere le spese. Posso fare una leggere una domanda che è anche la mia, ma quanto costa fare il testamento dal notaio? E poi vorrei sapere anche, perché voglio farmi un po' i fatti suoi, lei che è notaio l'ha già fatto il testamento o no? Più volte. Volte il suo? Più volte. Ah, perché magari man mano che si arricchisce lei dice no. Perché sono nati i figli, perché la famiglia è cambiata. Ma quanto costa? Dunque, una consulenza per la redazione di un testamento olografo può essere spesso e volentieri è gratuita, ma più di 200 euro più IVA di solito non costa. Dipende dal patrimonio un po' della persona che vuol farsi assistere. Sì, dalla complessità delle disposizioni, ma se si tratta di un soggetto che è già cliente e chiede solo un consiglio per un olografo, ripeto, la spesa è veramente minima. Un testamento pubblico... Beh, un consiglio lo potreste dare anche gratis, c'è bisogno Ah, sì, infatti è così. No, 200, quanto è? 200 più sì, IVA? Sì, 200 più IVA. Vabbè, che adesso poco, è anche al 22%. È quello che viene applicato normalmente nel mio studio, ma credo che sia più o meno la cifra che generalmente dire. Ecco. Questa che si sbraccia oggi con quante domande a me le ore fare il testamento. No, io poi ho delle cose da chiedere, ma abbiamo Mustafa. Ah, sì, certo. Si vuol sapere anche per il testamento pubblico, che invece è un atto notarile che ha anche dei costi e degli oneri, lì viene fuori circa 500 più IVA. Ecco, comunque sono sempre cifre ragionevoli rispetto a quello che si spenderebbe poi facendo una causa se il testamento è fatto male. Senta, notaio, ma ci sono molte persone che vengono da lei e che vogliono scrivere il proprio testamento non facendolo sapere a nessuno? Anche questa, come dire, un'abitudine, una situazione molto diffusa? Ma direi non oltre la metà, spesso e volentieri vengono insieme marito e moglie o qualcuno con i figli, non è così frequente il fatto che uno voglia tenere... No, magari ci sono, che ne so, figli illegittimi in circolazione che magari però il diretto interessato conosce e quindi magari vuole lasciare qualcosa, allora in questo caso non è magari carino che lo sappia il resto della famiglia. Esatto. Mustafa, sì, da Grosseto era già pronto. Mustafa, buongiorno. Buongiorno, senta, il mio caso, da quello che hai sentito, è diverso. Io sono straniero, adottato da una persona italiana. Sì. Allora, il fatto che tutte le volte che si parla di qualcosa mi dici, guarda, il testamento è fatto dal notaio tot, mi ha lasciato anche l'indirizzo. L'indomani, tutte le volte mi dice, l'indomani succede qualcosa, sappi che l'intestamento ce l'ha lui, così, deposato da lui, così. Allora, la mia domanda è, io come figlio adottivo... straniero per quello che è, che diritto ho per il testamento? Se cioè, mi tocca qualcosa, devo avere problemi con i familiari? Eh no, Mustafa, allora intanto dipende, immagino, che cosa c'è scritto in questo testamento, notaio Matteo. Tutto bisogna accertare se si tratta di un'adozione regolare a tutti gli effetti, il fatto che la persona sia straniera non fa nessuna differenza. Assolutamente. Lui ha gli stessi diritti di un figlio nato all'interno della famiglia. Un figlio biologico, diciamo. Quindi se nel testamento è disciplinato che Mustafa abbia diritto ad una determinata parte dell'eredità, la riceverà come appunto come gli spetta. Certo. Se nel testamento viene disposto diversamente, Mustafa ne dovrà giustamente sopportare le conseguenze, ma poi starà a lui decidere se ci sono i presupposti per impugnarlo. Quando lo si deve decidere, tra l'altro, notaio? E tra l'altro, una volta che viene a mancare la persona interessata, appunto, entro quanto si... rende disponibile la conoscenza del testamento? Beh, diciamo questo, ci sono dei termini di natura fiscale e di natura civile. Di natura fiscale si tende a completare la pratica di successione entro un anno per poi versare anche le dovute imposte per non andare incontro a sovrattasse, ma questo è un termine solo fiscale. In realtà il diritto si prescrive normalmente in 10 anni dalla morte, dalla conoscenza della morte. Quindi insomma per chi lo nasconde in un cassetto e magari appunto i parenti non ne vengono subito a conoscenza, c'è un bel lasso di tempo prima di poter far maturare gli effetti di questo documento. Tanti sms, Nicoletta, tanti sms, vero? Li leggiamo. Abbiamo scatenato i nostri ascoltatori ci aiutano a fare le domande giuste. Buongiorno, se al testamento olografo viene allegata anche una registrazione audio. Ah, lì. Ivano ci scrive, è perfetto. È inattaccabile, notaio Mattea? Diciamo che nessuna legge ancora ne parla. Adesso possiamo cominciare a fare video, magari. Infatti, ecco. Anche video, come no? E nessuna legge ne parla, io direi che sarebbe bene che comunque il testo scritto e firmato esaurisse già il tutto, il resto potrebbe essere un'illustrazione che può servire magari come principio di prova se poi le parti litigano, ma il valore legale rimane nel documento cartaceo. Il testamento scritto a macchina e firmato a penna è valido? No, non è valido perché non è un olografo. Può essere convalidato e decapitato con l'accordo di tutti i coeredi, se si riconosce che almeno la firma è autentica e il contenuto è condiviso da tutti, non ci sono contestazioni, si può fare un atto con cui i coeredi riconoscono validità a un testamento che potenzialmente invece non è. Notaio Mattea, una domanda molto ampia perché immagino che abbia bisogno di una trasmissione a sé. Nelle unioni di fatto, quanto sono complicate queste situazioni? Ma non sono particolarmente complicate, diciamo che un'unione di fatto dal punto di vista legale purtroppo è come se fosse un rapporto fra due estranei, per cui una coppia di fatto, che un uomo o una donna che vogliono prevedere che tutto vada all'altro convivente, e non hanno altro che fare un testamento identico a quello che farebbero se istituissero erede un estraneo. Poi ci saranno delle imposte anche più elevate perché purtroppo anche la legge li considera estranei, ma non è una casistica particolare ed è una casistica che ci capita tutti i giorni. Giuseppe da Torino all'800240024, state chiamando in tanti, chissà se nei prossimi 6 minuti riusciamo ad accontentare quanti più possibili, nella misura più possibile non ti ho ascoltato, mi sto incartando in questo momento. A questo proposito mi consenta un consiglio, noi come Consiglio Nazionale del Notariato abbiamo un sito internet www.notariato.it. Bravo. Dove ci sono delle guide pratiche, attualmente sono 9, una delle 9 si chiama Successioni tutelate ed è estremamente esauriente, può essere scaricata gratuitamente. Perché se lei parla con i suoi colleghi sapranno dirle che ne abbiamo fatte quasi tutte a Salvadanaio, riconosciamo benissimo queste guide. Ho sentito. Metteremo questa informazione anche su Facebook, perfetto. Per cui adesso andiamo alla domanda di Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Salve, senta, volevo un'informazione, visto che io sono italiano e mia moglie è russa, lei vuole fare testamento diciamo di tutto quello che ha a me come unico erede. Sì. La mia domanda era, i suoi parenti che abitano in Russia si possono avvalere contro questo testamento visto che lei è una cittadina russa e dovrebbero valere le leggi russe, oppure visto che il testamento è fatto in Italia... viene fatto il mio favore, vale la legge italiana, cioè questo che Ma voi siete residenti in Italia? Giuseppe. Esatto, siamo residenti in Italia. Direi che quindi prevale l'ordinamento italiano, regolato dalla legge italiana. Perfetto. E quindi i parenti, certo, se fossero dei figli che lei ha, sarebbero tutelati anche dalla legge italiana perché avrebbero diritto a una quota di legittima. Ma se non si tratta di figli, se sua moglie... Paradossalmente sono gli zii che hanno... avendo lei una casa là in Russia, gli zii che questa casa qua la vuole lasciare a me, però gli zii non vuole che... Ma perché Giuseppe, ma perché non la vendete e vi liberate di questo problema? Perché è un familiare. Ah, ecco, per questo motivo. Vedi l'emotività. Comunque brava. Dal punto di vista legale non possono dire niente. Certo. Più che altro ci interessava sapere. Perfetto, grazie. Ci mancano 4 minuti, Nicoletta, cominciamo il consiglio. Ce ne sono altre, ma se hai sms interessanti che cosa? Stavo pensando che è così complicato e mi ero appuntata ieri una frase di Goethe che scrive: se vuoi possedere ciò che i tuoi avi ti hanno lasciato in eredità, guadagnalo. Guadagnatelo, brava. Senta, notaio, peraltro la domanda di Giuseppe da Torino mi ha stuzzicato un'altra curiosità, ma ci sono molte mogli che lasciano un testamento e delle eredità al marito? Beh, direi di sì. Perché noi conosciamo un po'. Volentieri i coniugi lo fanno insieme, nel senso ognuno redige il proprio perché devono essere documenti separati, ma di solito sono dei testi speculari, anche perché non si può mai sapere chi viene a mancare dei due, e anzi, spesso e volentieri, questo è un consiglio che diamo a noi notai, dopo aver previsto le disposizioni di uno a favore dell'altro e viceversa o anche a favore dei figli, si mette anche una clausola per il disgraziatissimo caso in cui venissero a mancare insieme. Purtroppo è capitato, incidente aereo. Conta qualcosa il regime di divisione dei beni o di comunione dei beni? Non influisce minimamente sui diritti ereditari. Perfetto. Benissimo. Stefano da Milano, l'ultima domanda di oggi, poi andiamo verso i saluti. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Vorrei fare questa domanda. Sì. La falsificazione del testamento olografo può essere inversamente proporzionale alla lunghezza. Vi è un contenuto minimo del testamento olografo. Ma tu senti, qualche curiosità che hanno i nostri ascoltatori sono incredibili. Notaio Mattea. Il contenuto minimo è il fatto che sia interamente scritto di pugno, datato e firmato e contenga chiaramente l'indicazione dei soggetti che saranno eredi. Diciamo che comunque un testamento parzialmente falso è totalmente falso. Certo, allora, io leggo due sms, sì. Il primo: ma il notaio come sa del trapasso? Questo è un problema reale. È vero. È un problema reale. Sì, tu infatti, ridevi, ma è se vero. Sia in piccole realtà locali può venirlo a sapere. Di norma noi consigliamo a chi fa testamento olografo, anche quando è depositato presso i nostri studi, di lasciare in casa un biglietto con la scritta il testamento è presso il notaio tale. Altrimenti si può notaio... recare presso i consigli notarili e chiedere che venga mandata una circolare a tutti i notai del distretto per sapere se c'è un testamento depositato presso di loro. Perché sennò notaio la mattina vi tocca andare in ufficio, aprire il giornale, vedere tutti gli annunci funebri della giornata per vedere se c'è qualche vostro lo so, cliente. Ma qui abbiamo anche testamenti di persone che abitano molto lontano, non solo i nostri. Certo che le avete pensate tutte. Lo so, sono bravi, sono, d'altronde non sarebbero i garanti della legge se non fosse così, vero notaio Mattea? Cerchiamo di esserlo. Certo. Allora, un minuto e mezzo, un'ultima raccomandazione per chi se oggi a qualcuno fosse venuto in mente di fare il testamento, oltre a portarlo dal notaio in modo che sia scritto nella maniera più corretta possibile. Un ultimo suggerimento, notaio, lo possiamo dare ai nostri amici? Sì, certamente. Col testamento uno fondamentalmente vuol proiettare la propria persona, la propria volontà al di là della propria morte. Questo è giusto, è importante, è un gesto di responsabilità verso chi viene dopo, però bisogna anche pensare che non si può ingessare, cristallizzare il mondo al momento della propria scomparsa. Bisogna anche lasciare che quelli che vengono dopo possano vivere e possano disporre di questi beni. Certe clausole non puoi vendere per 20 anni, deve restare tutto com'è, e lasciano il tempo che trovano e fanno solo danno. Allora, per chi volesse ancora... rivolgerci delle domande magari su situazioni un po' più complicate, scriveteci a Cuore Denari, tutto attaccato, @radio24.it, e il notaio Mattea è a nostra disposizione per risolvere appunto queste situazioni. Cara, se volete mia, anche inserirci nel vostro testamento. Esatto, non è che ci fai, non come l'ascoltatore che vuole lasciarci tutti i debiti. Che cosa mi lascerai tu, cara Nicoletta? Adesso ci penso, perché il notaio mi ha convinto, farò testamento. Una bella piantagione di bacche di goji, non me le farà mancare di sicuro. Io ti lascio un bel portafoglino. Va bene. Con un assegnuccio dentro, ma chissà. Senti, ci ritroviamo lunedì. Abbiamo terminato questa settimana di Cuore e Denari. Vogliamo salutare il nostro amico Fabio che ci ha scritto questa bella mail. Pagato. Non l'ho pagato, non so se tu hai fatto qualcos'altro per, non si sa, per renderlo così carino. Leggiamola, 10 secondi. Vai. Sono un assiduo ascoltatore di Radio 24. Volevo dirvi che mi piace molto la nuova coppia delle 11. Ti è. A tutti quelli che ci vogliono male. Grazie a tutti. Buona buon giornata. Weekend. Cuore e Denari.